raga, sono Pietro, anche di Solo Vinile Libri, e io ascolto Do It Yourself Invasion, Radio Onda Rossa, dai! Hey everybody, this is John Conley of Nuclear Assault. You are listening to Onda Rossa on Do It Yourself Radio. Please call in your support. Io sono Roberto di Tutti i Pazzi Fanzine e anch'io ascolto Do It Yourself Invasion, lotta dura per la verdura. È la regione intermedia tra la luce e l'oscurità, tra la scienza e la superstizione, tra l'oscuro baratro dell'ignoto e le vette luminose del sapere. È la regione dell'immaginazione. Non delegare, partecipa. Ce l'abbiamo fatta, eh? 21 e 15 minuti primi. Torniamo in voce qui dalle frequenze di Radio Onda Rossa 87.9 in FM della banda romana e laziale. E questo è l'appuntamento del giovedì sera dalle 21 alle 22 con Do It Yourself Invasion. Una finestra aperta su tutto quello che è il mondo dell'autoproduzione musicale, non solo. Ricordiamo i contatti della radio. Quindi oltre le barriere dell'FM potete ascoltare la diretta streaming attraverso il sito raggiungibile al www.ondarossa.info. Radio Onda Rossa, radio libera nell'etere da 39 anni e che va avanti grazie al vostro supporto e sostegno. Radio totalmente autogestita ed autofinanziata, e quindi potete contribuire a questo progetto attraverso il sito della radio, appunto, andando a cliccare su sostieni. Sarete indirizzati ad una pagina con tutte le coordinate per poter sostenere Radio Onda Rossa. Oppure attraverso lo storico conto corrente postale del 61 80 40 01, intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via dei Volsci 56 00185, Roma. L'email di redazione ondarossa@ondarossa.info, oppure l'email della trasmissione, potete scriverci a fantasma@ondarossa.info. Quindi indirizzo dove sottoporci le vostre autoproduzioni, nonché dove segnalarci le vostre iniziative. Oppure se volete inviarci in forma fisica appunto le vostre autoproduzioni, l'indirizzo è sempre lo stesso: Via dei Volsci 56 00 185 Roma. Allora, mentre vi lasciamo con i Dead Can Dance, andiamo a preparare il collegamento di questa sera. Andiamo a raccontare quelle che sono state le 5 giornate Do It Yourself di Milano. E quindi rimanete lì. Dei Dead Can Dance forse non c'entra nulla con quello che è successo a Milano. Ce lo facciamo raccontare da Giulitta, che è in linea. Ci sei? Ciao. Sì, sono qua. Allora, benvenuta buonasera, sulle buonasera. Frequenze, sulle libere frequenze di Radio Onda Rossa. Allora, insomma, già ci eravamo lasciati, credo, che cos'era, novembre o dicembre, che avevamo fatto un po' il punto della situazione, di quello che stava accadendo a Milano. Cosa è successo nel frattempo? Ma niente, nel frattempo è venuta fuori questa cosa di riorganizzare la 5 giornate, che era già successa l'anno scorso. Che immagino già, cioè già era nella, nelle volontà dell'anno scorso, perché quando erano uscite le 5 giornate del Do It Yourself di Milano l'anno scorso, già era uscita come volume 1, quindi c'era proprio l'intenzione di continuarla, no? Sì, in realtà il volume 1 era più che altro la compilation, okay. Che si pensava già un volume 2, in quanto non eravamo riusciti a includere tutti i gruppi che ci avevano scritto per una questione materiale di spazio su disco, e quindi già si pensava a un volume 2 per includere tutti i gruppi esclusi, che non ci sembrava giusto, insomma. Lì è andata un po' a chi prima scrive, prima viene incluso. È stata una cosa del genere, quindi poi in realtà vabbè, sarebbe stato molto naturale per noi continuare con questa cosa delle 5 giornate, visto come è andata l'anno scorso. E l'anno scorso mi ricordo, ne parlavamo anche l'altra volta, probabilmente era stata una cosa del tutto casuale, ovvero che c'erano queste 3 giornate di concerti già organizzate da diverse individualità, da diversi collettivi, e quel pazzo di Cosimo ha buttato fuori questa cosa di attaccare altri 2 giorni e fare queste 5 giornate di Milano di richiamo alle 5 giornate storiche. Certo. E niente, quest'anno invece è stata una cosa del tipo va bene, dai, rifacciamole, organizziamoci una minima meglio, abbiamo più tempo. Ma in realtà, come tu ben sai, queste cose vanno sempre a finire che ci si prende all'ultimo e gruppi che paccano e madonne varie. E quindi anche quest'anno in realtà avremmo potuto fare molte più cose, e però insomma anche lì tra gli impegni di tutto, poi cioè, ognuno di noi queste iniziative le porta avanti durante tutto l'anno, e anch'io per esempio tra giugno e luglio, oltre a questa cosa delle 5 giornate, ero impegnata con 1000 altre cose, e quindi nonostante avessimo un sacco di tempo non siamo lo stesso riusciti a fare tutto quello che avremmo voluto, ecco. Vabbè, meglio, perché ci saranno, insomma, ci sarà materiale per fare altre cose, insomma, no? Esatto, abbiamo un margine di miglioramento infinito. Senti, allora per chi non c'è stato, vogliamo un po' raccontare che cosa si è svolto appunto durante queste iniziative di 5 giorni su grandi, vabbè, diciamo che insomma principalmente queste cose non si dovrebbero raccontare, perché cioè, ci devi stare, no? Oh, bravo, ecco. Bravissimo, sono completamente d'accordo. Però siccome non si può. Però siccome faccio un sono emozioni, sì. ed è difficile spiegarle a parole. Però faccio anche un uso privato della radio, quindi non ci sono potuto essere, magari chi è all'ascolto qui nell'area dell'FM di Radio Onda Rossa magari neanche sa che cosa è successo, quindi è giusto anche raccontarlo, no? Sì, ma guarda, a grandi linee, appunto, come dicevo, è un'iniziativa che ribadisce un po' la festa di quello che facciamo durante tutto l'anno, un po' a ribadire quello che si fa, quello che è Milano in questo momento a livello di chiamiamola scena hardcore punk e tutto il mondo legato appunto al do it yourself. Ci sono stati questi 5 giorni appunto che abbiamo organizzato tutti insieme, vari collettivi e appunto individualità, che sono state tra l'altro organizzate. Vabbè, noi comunque appunto siamo amici che fanno queste cose tutto l'anno, si coordinano e collaborano tutto l'anno in base alle esigenze, in base alle disponibilità di ciascuno. Siamo molto plastici rispetto a questo tipo di cosa, non è che ognuno si organizza per i fatti suoi le proprie cose, gli altri non se lo cagano. e quindi questa cosa si è rispecchiata in queste giornate, che sono un sunto di quello che noi facciamo. e appunto c'è stato il primo concerto in Villa Vegan, che abbiamo curato, diciamo, io col mio collettivo Queens of Chaos, e durante il quale c'è stata una presentazione della consultoria autogestita, che è una appunto una consultoria a tutti gli effetti, che c'è a Milano in Viale Monza. Mm-hmm. Il giovedì c'è stato un altro concerto in T28, che è, tra l'altro, è a fianco alla consultoria, e che ha curato Occult Punk Gang, che è un altro collettivo, e si è fatto un intervento sulla lotta per la casa da parte di Rocco del T28, in quanto loro sono un posto molto attivo su quel fronte di lotta. Poi il venerdì ci siamo spostati in Torchiera, in Cascina Torchiera, dove ha gestito Knife Shows insieme a Roberto e Angie, che appunto non fanno parte di collettivi, ma sono sempre danno sempre una mano ad altri, organizzano cose, insomma, nonostante siano da soli, ci sono una mano a vicenda. E c'è stata prima una presentazione di Marco Reggio sul tema dell'antispecismo e del veganesimo legati alla grande distribuzione. Il sabato poi siamo andati in Boccaccio a Monza, dove il tema della giornata erano le autoproduzioni, e appunto il Boccaccio, come accennavo prima, ne fa parte Cosimo del collettivo, ed è una delle persone più attive anche lui a livello di organizzazione, di iniziative, eccetera. E la domenica poi c'è stata la tazza gigante finale in Diagola. In Diagola c'è questo, a parte che questo forse lo dicevo anche l'altra volta, fa parte del Ticinese. Mm-hmm. Che è un quartiere riccamente con occupazione abitativa, di occupazione abitativa, esatto. E c'è questo posticino, chiamiamolo, praticamente sarebbe un negozietto, che è il Cuore in Gola, che è occupato, dove si fanno solitamente durante l'anno cene e altre iniziative, benefit, cose popolari per il quartiere. Però è piccolissimo, non può ospitare un concerto, e quindi il concerto, come l'anno scorso, si è svolto in strada, e quindi si è occupata tutta la strada facendo questa TAS per il concerto. E niente, insomma, come dicevo, la volontà è stata quella di fare una festa per noi, per tutti quelli che ci supportano, per chi partecipa durante l'anno, per chi vuole conoscere quello che facciamo in un'occasione particolare. E tutto questo è stato mosso anche da quello che ci muove sempre, dall'unire la parte musicale alla parte di lotta politica. È tutto ricavato di tutti gli sbattimenti che abbiamo fatto, quindi non solo gli ingressi, ma anche le cene, in alcuni casi il bar dei posti, eccetera. È andato benefit per le arrestate e gli arrestati della manifestazione del 7 maggio sul Brennero. E niente, questo è, allora, so se era quello che volevi sapere. Sì, no, ma no, mi chiedevo, tra l'altro, se questo mettere in intersezione, no, diverse aree di lotta durante queste giornate, hai la percezione che, insomma, si sia trasmesso appunto tra diverse individualità che magari nel corso dell'anno sono impegnate in un certo tipo di lotta. Quindi mi chiedevo se, appunto, fare una 5 giorni dove ogni giornata, appunto, ha un tema, abbia fatto conoscere poi le diverse individualità di lotta di Milano, insomma. Questo è quello che noi auspicavamo, certo. E mi pare anche sia riuscito abbastanza. Poi, tra l'altro, io durante queste 5 giornate ho visto un sacco di facce nuove, di persone nuove che appunto solitamente non vedo ai concerti, o perlomeno non le vedo in maniera costante, e quindi penso che siano state anche interessate magari oltre alla parte musicale anche dalla parte di contenuti che abbiamo voluto dare, ed è una cosa sinceramente che mi fa molto molto piacere, perché lo scopo, come dicevo prima, è anche quello di fare conoscere quello che facciamo, quello che siamo, le motivazioni a più persone possibili. Una cosa che dico sempre è che è inutile che stiamo a cantarcela e suonarcela, certo, tra di noi, che già abbiamo a cuore determinati argomenti, determinate tematiche, determinate lotte, e rimanere chiusi tra di noi. È bello invece coinvolgere diverse realtà, diverse visioni, diverse persone anche che magari inizialmente non sono totalmente affini, che però vedendo una realtà diversa dalla loro magari ne vengono incuriositi e si riesce a fare della controcultura, insomma, effettiva. Senti, una curiosità, insomma, già ne avevamo parlato l'altra volta, però insomma c'è l'occasione per riparlarne, ovviamente. La tazza in via Gola, come è stata recepita da chi vive l'area, insomma, oltre a voi occupanti temporanei? Allora, guarda, lì è un tema abbastanza controverso, nel senso che l'ultima TAZ che è stata fatta in via Gola, in quel caso non da parte da parte di tre di noi, praticamente non era coinvolto tutto, diciamo, non eravamo coinvolti tutti quanti come in questo caso. L'ultima volta ci sono stati un po' di problemi perché è finita tardissimo, mm-hmm, rispetto a quello che si era tra virgolette pattuito, tanto che un gruppo non era riuscito a suonare, gli obofobici, tra l'altro, ricordo. Quindi poveracci, pure arrivando da Puglia si erano fatti la spacchinata e se la sono un po' pigliata in quel posto, e quindi c'è stata questa controversia un po' col quartiere. Poi, appunto, io personalmente non ho gestito i rapporti con per l'organizzazione della TAZ, quindi non so dirti di preciso. So però che all'inizio c'erano abbastanza perplessità rispetto, mm-hmm, al rifare un'iniziativa del genere, tant'è che abbiamo detto questa volta mi raccomando, siamo precisi con gli orari, siamo puntuali, puliamo la strada, eccetera eccetera, insomma di dare il meno fastidio tra virgolette possibile a quelli che sono i normali abitanti del quartiere, certo. E devo dire che questa volta siamo riusciti a fare un bel lavoro, anzi anche, guarda, una cosa che mi ha reso molto orgogliosa è il fatto che siamo riusciti a rispettare quasi alla lettera tutti gli orari di tutte le giornate, cosa che come sì, sai è leggendaria. Esatto, invece no, grazie all'impegno di tutti e a personaggi come Tassi, ad esempio, che lui su questa lotta degli orari è sempre molto attivo, diciamo, siamo riusciti, a parte in Boccaccio che purtroppo siamo stati travolti da un uragano, non per modo di dire, ma veramente c'è stato un uragano che ha sradicato alberi, ha rotto delle macchine, anche la mia macchina c'era su un albero sul cofano, per fortuna non si è rotto niente, e quindi anche lì il concerto era previsto all'aperto perché le previsioni davano che metteva piogge deboli, certo, tra l'altro non tutto il tempo, e quindi cacchio, tutte le bancarelle delle autoproduzioni eccetera eccetera, tre palchi montati fuori e tutto quanto, e invece è arrivata sta bufera, abbiamo dovuto spostare tutto in fretta e furia, prendi la strumentazione, portala dentro, si è allagata la palestra, quindi asciuga tutto perché non si può accendere l'impianto, e abbiamo fatto ritardo di un'oretta alla fine, anche tagliando le scalette delle band purtroppo. E quindi niente, invece in via Gola abbiamo finito addirittura prima dell'orario prestabilito e ieri appunto ci siamo ritrovati tutti quanti per fare un po' il punto della situazione, poi in realtà siamo degli scalcagnati cronici, e invece di parlare, di fare appunto un'assemblea finale per dirti com'era andata, cosa è andato bene, cosa è andato male, eccetera eccetera, siamo finiti a bere Campari in via Gola senza parlare di tutto ciò. Vabbè, un'assemblea celebrativa, insomma, dai. Sì, è stata più una specie di doveva essere addirittura una pizzata all'inizio, tipo pizzata di fine anno, ma in realtà c'era una cena benefit per Marina in via Gola, Marina che è stata arrestata, certo, per i fatti del G8, e quindi abbiamo detto vabbè, andiamo alla cena in via Gola, e quindi niente, è finito un po' tarabuccerino, ecco. Senti, no, mi ricollego sempre a cose dell'ultima chiacchierata, no? Per vedere come vi osserviamo, ci teniamo, insomma, a seguirvi, insomma. Ma appunto nell'ultima chiacchierata che ci eravamo fatti qui, ci parlavi appunto di un rimescolamento, no? Tra generazioni più giovani e generazioni un po' più anziane, che magari nel corso degli anni si erano un po' affaticate nella realizzazione di iniziative non di questo genere ma simili, e quindi ci stavi appunto raccontando che si era creata una nuova amalgama, no? Con questa iniziativa hai potuto, insomma, verificare che i rapporti, insomma, stanno crescendo, vi state rinsaldando? Ma guarda, assolutamente, assolutamente, perché comunque quest'anno un'altra cosa bella è stata che eravamo quasi gli stessi dell'anno scorso, a parte magari qualcuno come ad esempio Pasca, che adesso è tornato giù in Abruzzo e quindi non c'era proprio fisicamente con noi, non è potuto esserci, però eravamo gli stessi dell'anno scorso, e in più c'era anche altra gente, e sempre persone comunque di ogni età, e anche non solo tra noi che organizziamo ma anche tra il pubblico era molto evidente come cosa, veramente c'erano i vecchi punk che giravano magari anche 20-30 anni fa, e c'erano i ragazzini magari di 15-16 anni, e tutti a pogare, cantare insieme, cioè è molto bella come cosa questa, secondo me, anche perché ribadisce una cosa che dicevo l'altra volta, ovvero che non è che appunto negli anni 80 è una cosa che non può più succedere, che deve essere per forza vista come un mito, elitizzare le persone che hanno vissuto quegli anni, eccetera eccetera. È una cosa invece che è nel bene e nell'interesse di tutti ricreare in questo momento, ed è, cioè, in realtà poi voglio dire, è una cosa che si sta creando molto naturalmente, ma poi lo vedo in tutta Italia come cosa, in particolare ci sono un sacco di scene che si stanno evolvendo, che stanno crescendo, sempre più gente che organizza concerti, che gira anche, che si supporta a vicenda, perché poi non è che non c'è, voglio dire, campanilismo del tipo che ognuno se ne sta nella sua città, certo, e si schifa gli altri, e è molto bella come cosa, appunto, anche con l'età, e poi soprattutto vedere quelli più anziani, tra virgolette, che non se la menano, come dire, al contrario di magari grupponi che fanno le reunion e fanno sta cazzo di reunion una volta sola, che è palese, per tirar su qualche spicciolo, queste sono persone che invece le vedi costantemente ai concerti, vengono, si divertono, supportano. Per esempio Fabietto dei Recce ha presentato l'antologia in T28, è venuto col banchetto, autoprodotta, anche lui, no? Gira sempre tranquillissimo, come, scusa? Dicevo autoprodotta. Sì, perché lui ci tiene tantissimo, lui veramente truth il death, come si suol dire. Benissimo, benissimo. Infatti rispetto. Insomma, no, vabbè, quindi un altro esempio a Milano, appunto, dove si è vista non la celebrazione dei gruppi sul palco, ma appunto una festa di un modo di fare le cose, no? Sì, secondo me è proprio la festa di un modo di vivere, di una cultura, di un modo di essere. Lo dicevamo l'altra volta. Lo dicevamo l'altra volta, no? Usando una parolona. Una cosa che se veramente ti entra dentro, poi non la lasci più. E poi appunto, cioè, ribadiamo. Ah, guarda, a questo proposito, una cosa che mi ha fatto molto molto piacere. Noi quando abbiamo fissato le date, abbiamo anche controllato che non ci fossero altre iniziative, altre cose. In realtà poi c'era un botto di roba in giro di qualsiasi tipo, sia a Milano che vicino a Milano, per esempio l'Antifa Festa a Torino. O altri festival. Ne abbiamo parlato l'altra settimana con Mastello. Vabbè, non era c'era una celebrazione, insomma, di date, quindi no, ma non è il discorso non è il discorso di accavallarsi le cose. Quello che mi preoccupava era chiaramente l'affluenza di persone. Certo. Cioè, perché capisco che si fa il possibile per non accavallare iniziative, però insomma siamo Torino-Milano, non siamo neanche dietro l'angolo, non è certo. Lontanissimo, però non è che puoi pretendere che si faccia una cosa sola nel raggio di 500 chilometri. No, quello che invece è successo è che a Milano sono uscite delle date di cui noi non eravamo a conoscenza quando abbiamo fissato le nostre, di gruppi grossi, perché il mercoledì c'erano i Municipal Waste al Magnolia, mercoledì c'erano i Casualties qua a Magenta al Decibel, che vabbè, io abito a Magenta e c'è questo posto che è una specie di pub che ultimamente sta facendo un po' di concerti, di gruppi un po' grossini, ma in realtà fa anche gruppi tipo, ho visto i Termidown, i CGB, i Bull Brigade non ero andata a vedere, però insomma hanno suonato qua comunque, vabbè. Credo gli ultimi, Braccaggio, insomma, per citare qualche gruppo di Roma, ci ha suonato nell'ultimo anno sicuramente. Sì, ma io ero addirittura andata a un festival skin, che anche se non è proprio il mio pane, però ho detto è qua dietro casa, supportiamo la scena di Magenta che è inesistente e quindi, cioè, inesistente per quanto mi riguarda, per quello che frequento io, ecco. Poi inesistente non è vero, perché appunto ci sono loro che anzi si sbattono un sacco e portano un sacco di gruppi di ogni tipo, quindi anzi tanto di cappello di animare così un paese. Cioè, qua veramente è la morte, qua in questa zona della provincia di Milano. Io sono cresciuta qui e purtroppo lo so bene. E niente, quindi per tornare al discorso, giovedì c'erano i Casualties qua, venerdì c'erano i Bad Religion al Market a Milano, niente proprio. Sabato c'erano i Google Bordelli. Insomma, ogni sera noi avevamo praticamente un big con cui confrontarci. Allora, il discorso è che sicuramente sono target di pubblico diverso, nel senso che chi viene ai nostri concerti tutto l'anno, chi ha una determinata sensibilità per l'ottica DIY, sicuramente è venuto allo stesso ai nostri concerti, o magari ha saltato una sera al gruppone, l'altra sera è andato al gruppone, insomma, però c'è stato comunque supporto lo stesso. Però in ogni caso sono gruppi che io stessa, se non avessi avuto le giornate, magari mandavo a vedere i Municipal Waste piuttosto che Bad Religion. Quindi vuol dire che c'è stata un po' una contrapposizione involontaria, e noi siamo andati bene lo stesso. Anzi, io mercoledì assolutamente non mi aspettavo tutta la gente che c'era alla prima giornata in Villa Vegan. C'era veramente un botto di gente, abbiamo finito tutto, abbiamo venduto tutte le birre del bar, avevamo fatto l'aperitivo con gli spritz, venduto tutto anche quello, e tutta la cena, non è rimasto un chicco di riso in tutta la cucina. Cioè, e quindi vedere comunque che c'è stata tanta partecipazione a fronte di eventi grossi che c'erano comunque in zona, mi fa sperare in bene, perché vuol dire che comunque si sta tornando un po' alle radici di quello che era il punk, di quello che era l'hardcore, e quindi non è che la gente si incula solo i gruppi grossi pensando che non esista niente appunto nell'epoca attuale, nel luogo attuale. Evidentemente si sta riuscendo a far passare il messaggio del viviti il presente e, ma anche perché, anche questo lo dicevo l'altra volta, cioè veramente il clima che trovi in quel tipo di concerti paragonato al clima che si trova a questi non ha niente a che fare, cioè sono due cose completamente diverse secondo me. Poi comunque siamo tutti cresciuti magari appunto ascoltando gruppi grossi che ci fa piacere andare a rivedere, certo. Anche se in posti di merda perché io sono la prima, però è un'altra cosa, cioè lo vivi proprio in una maniera diversa, sono due cose diverse. Bene, bene, bene, bene. No, sono molto contento, insomma, di sentire un'altra volta feedback così positivi da questo tipo di iniziative, perché appunto, cioè, l'abbiamo detto, ci ripetiamo, sono messaggi, questa è comunicazione, è il modo di fare le cose dal basso, senza mitismi, senza creare la mega iniziativa, no? Con il grande gruppo di richiamo, costruire la scaletta, no? Ma anche solo il fatto di non avere sponsor, per esempio, o cose di questo tipo, cioè assolutamente. Noi veramente questa cosa è una cosa più grossa, perché veramente ci mettiamo tutti insieme. Poi in realtà non eravamo neanche tutti, perché ci sono un sacco di realtà parallele a noi che magari non hanno partecipato. Noi in realtà l'assemblea l'avevamo tra virgolette sponsorizzata, come aperta a chiunque volesse partecipare, e rimane un invito aperto a chiunque voglia darci una mano. Per carità, non siamo assolutamente chiusi, anzi benvengano persone nuove con voglia di fare, che sono sempre ben accette. E mi sono persa. Va bene. Sapevo che sarebbe successo. Sì, vabbè, ma questa volta è toccata a te, non è toccata a me, quindi vittoria. No, va bene, insomma, più o meno, insomma, abbiamo coperto un po' tutto quello che ci eravamo prefissati di dire, ma non, in realtà non è così. No, appunto, ecco, mi sono rincastrato anch'io, vedi? perché come l'altra volta è contagioso. Senti, no, vabbè, va bene, dai, ma il comune mezzo gaudio, esatto. Mettiamola così. Allora, dai, se non hai nient'altro da aggiungere, allora magari ci salutiamo qui e continuo la trasmissione proponendo qualcosa dalla compilation è scaricabile dalla pagina di Bandcamp, no? Sì, sì, sì, come l'anno scorso. Allora, anche lì, come dicevo prima, ci siamo presi all'ultimo perché eravamo presi con mille altre cose. E quindi anche quella fatta in volata, stampata tipo nel giro di una settimana, abbiamo stampato quelle 100-200 copie che pensavamo servissero, e l'abbiamo messa su Bandcamp. Praticamente è cambiata la grafica, mm-hmm. Però in realtà quest'anno è in due volumi, perché uno è uguale, identico a quello dell'anno scorso, e poi c'è il secondo disco che ha appunto una serie di gruppi nuovi, che o perché sono nuovi, che l'anno scorso non c'erano, perché comunque continuano a uscire gruppi nuovi fortunatamente qua a Milano in zona, o perché non erano rientrati per questioni di spazio sul disco dell'anno scorso. E quindi su Bandcamp si trova tutta la playlist, diciamo, con tutti i brani di questi due dischi che erano reperibili fisicamente durante le giornate. Come trovarla? Quindi su Bandcamp? Sì, e poi... No, dico, si chiama Disgusto e Strafottenza, no? Disgusto e Strafottenza, sì, che come la tazza in via Gola, che prende il nome dal famoso articolo del Corriere della Sera, dove c'era queste parole che erano state utilizzate per descrivere un ragazzo dell'occupazione, vabbè, però questa è un'altra storia. Va bene, poi molto divertente. I curiosi andranno ad approfondire. Esatto. Senti, esatto. Allora, è una scaricabile gratuitamente, però è una compilation benefit, no? Sì, quindi esatto, come dicevo prima, tutto il materiale distribuito durante le giornate, eccetera, eccetera, era benefit. E questa rimane benefit, e quindi se quindi allungare la possibilità di fare di fare un'offerta lì su Bandcamp, però lo allungatevi so le braccine, no? Io. Allungatevi esatto. Le braccine, perché ricordiamo il benefit, il motivo del benefit, lo dicevi prima, però insomma sì, la manifestazione del 7 maggio al Brennero contro i confini, perché praticamente c'era l'Austria che voleva fare questa riforma per aumentare i controlli, bloccare tutti i flussi migratori, e quindi c'è stata questa manifestazione abbastanza dura, mossa dai compagni di Trento e molto partecipata, durante la quale purtroppo ci sono stati degli arresti, e quindi insomma ci sono delle spese legali da sborsare, e questi soldi vanno a coprire queste spese. Tra l'altro uno degli arrestati fa parte degli organizzatori di queste 5 giornate, è il nostro carissimo amico, quindi insomma a maggior ragione okay. Diciamo, supportiamo la causa. Benissimo, allora Giulietta, io ti ringrazio, non so se vuoi lanciare un saluto agli ascoltatori e alle ascoltatrici di Radio Onda Rossa. Sì, no, questa però è un po' una vigliaccata, perché sei tu che vai incitato a dire quando l'ha fatta a Roma, e io esatto, ti smerdo esatto. Così in diretta. Sì, ma me la rivendico. No, io me la rivendico, Roma, insomma, però tu la devi condividere. In realtà anche io scendo, spesso no, perché siamo un po' lontanini, però quando riesco a scendere mi fa sempre piacere, comunque ho tanti amici giù e è sempre bello, anche voi avete comunque un sacco di posti, di iniziative fighe, è una di quelle scene che dicevo prima, bella attiva. Va bene, insomma, ci salutiamo così con un augurio che lanciamo da questi microfoni. Oh, vediamo di farla pure a Roma una tazza per strada, perché è una figata. Ah, perché così effettivamente quello, non so se vi manca. Le tazze sono sempre sì, una gran figata. Ok. Dai Giulietta, ti ringrazio, un abbraccione. Altrettanto, ricambio. Ciao. Alla prossima. Ciao, grazie. Ciao. Eh sì, con l'applauso. E noi appunto dalla compilation Benefit e Disgusto e Strafottenza volume 2 ci ascoltiamo Marcia senza tanta voglia. I Mordax. E come non ascoltare anche i fiele appunto di Giulietta che abbiamo ascoltato adesso al telefono, e questa è Polvere. Yeah! E chiudiamo con il Soviet Order Zero per questa. Per quanto riguarda la compilation Disgusto e Strafottenza della Milano Punks. Questa ce la riascoltiamo da capo, eh? Soviet Order Zero. Saluto a Gabriele che ci ha chiamato poc'anzi per un saluto. Ciao Gabriele, affezionato ascoltatore di Radio Onda Rossa. Mentre ascoltiamo gli Alt ALT Apuania Hardcore, qui da una demo tape uscita in quest'anno, nel 2016. Ci ascoltiamo una tripletta. Quindi questa era la tripletta dedicata agli ALT da La Spezia. Mentre ci hanno inviato questo lavoro gli Hermes. Qui appunto dell'ultimo lavoro. e questa è Decoding Bertos Grill, che rimettiamo da capo. Ogni volta che compri un prodotto israeliano, fermi. Eh già. Pensa. Quanti palestinesi? Allora, 22. Sono le 22. E 7 minuti. E quindi in attesa dell'arrivo degli apostati, andiamo a chiudere questa puntata di Do It Yourself Invasion con uno spazio comunicazioni. Allora, dallo scorso lunedì 4 di luglio fino a questo sabato, un'estate sociale del territorio, Schuster Social Park. Quindi conoscersi, giocare, condividere, progettare, decidere. E quindi ricordiamo le ultime due giornate di questa settimana dedicata al Parco Schuster. Domani 8 luglio dalle ore 18, gara di macchine autocostruite. Ci sarà poi un'assemblea dedicata all'autogoverno dei territori e partecipazione diretta. Poi dalle ore 21 la proiezione del film d'animazione Il Castello Errante di Hall. E poi dalle 22:30 un'altra proiezione con il film Fiore. Poi la giornata del sabato 9 luglio, sempre dalle ore 18, una caccia al tesoro, a seguire poi una cena ed il concerto di Cacio a Roma e Refectory Brass Band. Altra iniziativa che ricordiamo, sempre per sabato 9 luglio, con il consueto appuntamento estivo di Torre Mauro Occupata, quindi con la 17ª festa rivoltante, quindi dalle ore 17. Ci siamo, quindi dalle ore 17, dicevamo. Distro Libri Autoproduzioni, Buffet Vegan e Libagioni a sostegno della Biblioteca Anarchica L'Idea. Poi DJ Set con Bob Delight, ZK Yama. E concerti con Cascao, Tetra F e The Ruins of Rome. E gli Idol Lips da Ceccano. Tutto questo è il pratone di Via dei Rudiri di Casa Calda, quindi con la 17ª festa rivoltante. A noi ci risale il metal con l'estate. Ed andiamo a chiudere così questa puntata di Do It Yourself Invasion. L'appuntamento è per giovedì prossimo dalle ore 21 alle ore 22. Andremo a presentare un'altra iniziativa. Vediamo se riusciamo ad avere qui ospiti in studio gli ideatori e le ideatrici dell'edizione di quest'anno del Terra Madre a Montelanico. Intanto anticipiamo il programma di quello che sarà l'iniziativa, che inizierà giovedì 14, e quindi con stand gastronomici con prodotti provenienti esclusivamente dalle terre dell'orto occupato, appunto a Montelanico, e di altre coltivazioni di compagni che fanno rete attorno al collettivo, che è quello di Terra Madre, appunto, di Montelanico. E quindi da giovedì 14 dalle ore 20 una cena che andrà ad accogliere appunto artigiani, agricoltori del mercatino e appunto campeggiatori e campeggiatrici che vorranno partecipare all'iniziativa. Poi venerdì 15 il programma è fittissimo dalle ore 12:30 pranzo. E poi si prosegue con un'assemblea al pomeriggio dalle 17:30, appunto una libera assemblea tra associazione di Terra Madre e i partecipanti. Dalle ore 20 una cena e dalle 21:30 il concerto con Lì Malclango, Scimmioni Brutti Brutti Brutti, ma che suonano da paura. E poi Max Carnegie da Roma e Mefitica. Poi sabato 16 dopo il pranzo una visita ai terreni autogestiti dell'associazione, dalle ore 20 una cena e poi si chiude sempre con concerti. Programma che prosegue poi la domenica 17. Ne parleremo in maniera più approfondita appunto giovedì prossimo. Il nostro saluto più caro va a tutte e tutti coloro che si trovano privati della loro libertà personale. Noi ringraziamo dell'ascolto, appunto, ascoltatori ed ascoltatrici. Ci risentiamo giovedì prossimo dalle ore 21. Voi rimanete lì perché tra poco inizia Apostasia. Grazie.